Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico finanziaria. Sorrido perché in realtà l'avevo già fatto i saluti e il ringraziamento. Peccato che il microfono fosse spento, e in radio con il microfono spento vai da poche parti. Allora, andiamo e cerchiamo di essere seri, parlando sia dei temi di questa giornata economico finanziaria che di alcune anche loro conseguenze. Oggi ci occuperemo del tema energia sotto sostanzialmente tre aspetti, legandoci come sempre alla cronaca. Da un lato le nuove tensioni tra Mosca e Kiev, e quindi il blocco delle forniture di gas russo all'Ucraina per i mancati pagamenti. Dice l'Unione Europea di non avere problemi, di non temere nulla. Io qualche gesto scaramantico lo farei, però, perché sono ampiamente disponibili le riserve di gas superiori anche alla media, ha detto l'Unione Europea in Europa. Tra l'altro oggi il ministro Federica Guidi ha detto che gli stoccaggi treni di gas sono stati riempiti durante il periodo estivo in modo pressoché totale, siamo al 90% del grado di riempimento. Tra l'altro gli approvvigionamenti in Italia non preoccupano. Gazprom ha interrotto le forniture di gas all'Ucraina finché non arriveranno i nuovi prepagamenti. Ripeto, complessivamente la Commissione Europea fa sapere di non essere preoccupata perché le riserve di gas di Kiev, cito testualmente, sono anche leggermente più piene, non è italiano però, 16 miliardi e mezzo di metri cubi rispetto all'anno scorso, e questo è un fronte. Poi c'è il fronte invece delicatissimo anche di carattere energetico, ma dello scambio commerciale tra Turchia e Russia dopo l'abbattimento del jet russo ieri e tutto ciò che ne è conseguito, e anche di questo parleremo. E poi c'è un fatto che riguarda molto l'Italia. Adesso io capisco tutto, lo dico ma non per accendere subito le polemiche, ma com'è possibile che siano tornati a aumentare i prezzi della benzina? Io capisco che e questo non per il prezzo del petrolio, anche se si dice in seguito alle ultime tensioni sui prezzi petroliferi delle ultime settimane. Il petrolio comunque è vero che ha superato i 46 dollari al barile. La giustificazione però non è tanto il prezzo del petrolio, ma l'escalation della crisi in Medio Oriente ha spinto il petrolio ai massimi da un paio di settimane. Ragazzi, stiamo ragionando di un petrolio a 46 dollari al barile, a 44 dollari al barile. E poi non capisco un'altra cosa: come mai il prezzo alla pompa, che è salito di 0,5 centesimi, di 2 centesimi, di 1 centesimo a seconda dei marchi, in generale tra i 2 centesimi e 1 centesimo, è così sensibile addirittura in due settimane alle tensioni medio orientali, agli attacchi terroristici, a quanto sta capitando? Ma ci hanno sempre detto che invece quando ci sono i cali bisogna aspettare, perché i cali incorporeranno i prezzi futuri e quindi non si scaricheranno subito. È un mistero che riguarda il mondo del petrolio, e anche di questo ci occuperemo, perché la benzina in aumento per le tensioni delle ultime due settimane onestamente non si può sentire. Ancora, per quello che riguarda i temi, se n'è appena occupato Oscar Giannino, torneremo anche noi per i dettagli di questa misura annunciata ieri dal Presidente del Consiglio. È chiaro l'obiettivo politico, Renzi ha detto per ogni euro speso per la sicurezza vi sarà un euro speso per la cultura, il messaggio diciamo politico è chiaro. Il bonus a 500 euro per 550.000 neomaggiorenni da investire in teatri, musei e concerti, insieme a un'altra serie di misure per circa 1 miliardo destinate all'educazione, sta suscitando non polemiche ma dubbi, nel senso che non si capisce bene come verrà applicato il bonus. Lo ascolteremo il Presidente del Consiglio nell'annunciare una carta bonus a 500 euro per i professori e anche i 550.000 italiani che compiranno 18 anni. Anche di questo parleremo. Poi i mercati finanziari, più 1,81% oggi in recupero, le borse che ieri si erano spaventate, e anche a ragione, dopo l'abbattimento del jet russo, più 1,81 dicevo Milano, più 2% Francoforte, più 1,5 Parigi, l'euro su dollaro guadagna, è a quota 1,06, tra i titoli netto recupero anche oggi Case New Holland, ossia CNH Industrial, più 5,60%, Finmeccanica più 4,30%, Anima Holding più 4% come Azimut, Campari più 3% come la Pop Milano, il 2,5% lo guadagna Enel Green Power e Prismian, e Jux Net-a-Porter, il 2,30 Enel ma anche Mediolanum, il 2% Intesa San Paolo e Moncler ma anche Unicredit. Infine di negativo c'è nulla sostanzialmente, Mediaset, Ansaldo e Tenaris sono invariate, anche Italcementi è invariata. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, così come c'è sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, visto che parlavamo del petrolio, oggi è in calo del 2% a $41 al barile, chissà se a breve commenteremo una benzina in calo. Ripeto, gli aumenti sono scattati, lo riporta la staffetta quotidiana petrolifera, sono scattati in tutti i distributori, Eni più 2 centesimi sulla benzina, più 1 centesimo sul diesel, Esso mezzo centesimo su entrambi, Kuwait Shell più 1 centesimo su diesel e benzina, Total Erg un centesimo in più e via così. C'è un leggero calo, ma meno 0,1 per il self service. L'Ucraina nel frattempo ha vietato, dopo la cessazione dei trasferimenti di gas da Mosca a Kiev, l'Ucraina ha vietato lo spazio aereo a tutte le compagnie russe per evitare provocazioni. Nel frattempo la tensione resta sempre altissima tra Russia e Turchia, dopo l'abbattimento del jet, praticamente i russi hanno deciso di schierare la contraerea del sistema missilistico S-400, mentre i turchi aumentano la presenza dei caccia F-16 nel pattugliamento. Né Putin né Erdogan vogliono un'escalation, il primo fa sapere che se dovesse ripetersi quanto accaduto si dovrà reagire, il ministro degli esteri turco esprime all'omologo russo Lavrov le condoglianze per la morte del pilota. Sappiamo che il secondo è salvo in una base russa. Nel frattempo, ripeto, anche i mercati finanziari oggi sono più tranquilli. L'euro, che adesso è 1,06, è arrivato anche a 1,058, sia i minimi da 7 mesi a questa parte. Sempre in Europa, la Banca Centrale Europea sospenderà il quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli di Stato per aumentare la liquidità nel periodo natalizio. Teme infatti che, essendoci una bassa liquidità del mercato stesso, vi possono essere distorsioni del mercato. Venendo all'Italia invece, la flessibilità, o meglio, venendo anche all'Italia, perché sono tre i paesi che hanno ottenuto maggiore flessibilità in quello che si chiama draft budgetary plan, ossia insomma quello che hanno intenzione di fare come manovra finanziaria. Austria, Belgio e Italia nel 2016 faranno ricorso alla flessibilità prevista dal patto di stabilità per eventi insoliti al di fuori del controllo del governo e quindi migranti, mentre Germania, Finlandia e anche la Slovenia hanno fornito alcune informazioni ma non hanno chiesto l'utilizzo della clausola. Lo ha sottolineato lo stesso ministro dell'economia e delle finanze Piercarlo Padoan al comitato Schengen e ha anche stimato che con l'aumento dei flussi migratori la spesa, perché quest'anno ha valutato in 3 miliardi e 300 milioni di euro, salirà a 4 miliardi nel 2016. Il differenziale tra la spesa sostenuta negli anni 11-12 e negli anni in cui si è manifestata l'emergenza umanitaria è pari in termini cumulativi a circa 4 miliardi di euro, quindi noi valutiamo in 4 miliardi la spesa cumulativa ad oggi. Le risorse disponibili in bilancio per i prossimi anni consentono di sostenere un livello di intervallo paragonabile a quello del 2015 e questo è quello che chiamiamo scenario costante, cioè assumiamo lo scenario 15 come lo scenario, diciamo, finale che viene proiettato nel tempo, ma questa è una proiezione conservativa nella prospettiva dell'acuirsi della crisi che sembra l'indicazione che proviene dalle analisi internazionali, si determinerebbe l'esigenza di ulteriori fondi. Nel caso in cui la presenza nelle strutture di accoglienza nel 16 registrassero lo stesso incremento osservato dal 14 al 15, il cosiddetto secondo scenario di crescita, la spesa complessiva ammonterebbe a poco meno di 4 miliardi nel solo 2016. Allora, vedo che un ascoltatore al 349-238-6666 dice: adesso lei non ci parlerà del dato sulle vendite a dettaglio. Lo stavo per fare, abbia un po' di pazienza. Perché? Perché il dato di oggi dell'Istat segnala una flessione dei fatturati e degli ordinativi rispetto ad agosto nell'industria e comunque una flessione dello 0,8 rispetto a settembre 2014. Il fatturato del settore auto è cresciuto del 35% e del 24% gli ordinativi, più al palo chiaramente gli altri settori. Per quello che riguarda invece le vendite a dettaglio e i consumi, adesso vi arriveremo, vorrei intanto ascoltare il presidente del Confindustria Squinzi che dice: attenzione, stiamo facendo fatica ad agganciare la ripresa e gli ultimi dati sulla fatturata e produzione industriale vanno in questa direzione, così come il deludente PIL del terzo trimestre, aggiungo io, che sotto le attese. Anche i dati che sono usciti dal nostro centro studi di Confindustria sulla produzione nel terzo trimestre confermano che facciamo fatica ad agganciare questa ripresa dal mio punto di vista, perché mancano ancora i consumi interni e comunque urge, perché quel poco di ripresa che abbiamo sicuramente è anche dovuto molto ai tre fattori esterni: cambio, prezzo del petrolio e quantitative easing della Banca Centrale Europea. Ma quello che noi abbiamo bisogno veramente per agganciare una ripresa in maniera forte sono le riforme interne. Bisogna assolutamente mettere mano con determinazione alle riforme interne, non solo annunciarle ma anche realizzarle compiutamente. E in questo scenario si inseriscono anche i dati di oggi sui consumi e le vendite al dettaglio. Sono un po' più positive rispetto al fatturato e agli ordinativi, perché ripeto, gli ordinativi sono negativi anche rispetto a un anno fa. L'Istat fa notare che pesa il mercato estero, nel senso che ha rallentato l'economia internazionale, in particolar modo, come spesso raccontiamo, quella dei paesi emergenti, degli ex BRICS. I dati sulle vendite a dettaglio sono un po' migliori, nel senso che c'è un calo rispetto al mese di agosto, -0,1, ma se si confrontano le vendite a dettaglio di settembre 2015 su settembre 2014 c'è un aumento dell'1,5%, che non è poco nel settore dei consumi. L'Ilva. Allora, oggi segretaria della CGIL Susanna Camusso ha chiarito che, o meglio, secondo la CGIL, il blocco del 1,2 miliardi di euro della famiglia Riva da parte della Svizzera è una doccia fredda. Che cosa è successo ieri? Il Tribunale federale di Bellinzona in Svizzera ha accolto il ricorso delle figlie di Emilio Riva e ha detto no al rientro in Italia di 1,2 miliardi di euro che erano stati sequestrati dai magistrati di Milano. Ha detto che bisogna attendere il giudizio della magistratura, il giudizio del tribunale. Il sequestro in questo caso sarebbe un sequestro preventivo. Susanna Camusso oggi cosa dice? Dice: attenzione, siccome quel 1,2 miliardi, come abbiamo spiegato molte volte, è fondamentale per l'ILVA per andare avanti, garantire la continuità, ha detto è urgente un intervento e che le risorse siano anticipate dal pubblico per non rischiare che non ci siano più prospettive, per non trascurare una situazione già allo sbando. Thank you. Ancora due notizie, poi passiamo al tema della benzina, delle tensioni sul mercato dell'energia e anche delle tensioni nuove tra Kiev e Mosca. Per quello che riguarda il piano pluriennale 2015-2019 e il contratto di programma del 2015 dell'ANAS, dopo gli ultimi scandali che hanno travolto l'ANAS, il ministro alle infrastrutture e trasporti Graziano Del Rio, a margine della presentazione del piano, ha sottolineato gli elementi che secondo lui possono far parlare di un cambio di passo notevole. Al centro c'è certamente la manutenzione e la cura di una rete stradale che ha bisogno di interventi importanti, massicci, sulle gallerie, sui viadotti. C'è anche nel piano quinquennale una parte di finanziamenti destinati alle nuove opere, ma soprattutto ci concentriamo sulla manutenzione e il completamento degli itinerari, cioè, come ho sempre detto, sulle opere che le comunità ritengono utili, al di là del fatto che siano grandi o piccole. Quindi sono investimenti massicci, c'è un aumento importante che il governo ha deciso nella legge di stabilità di finanziamento ad ANAS. ANAS finalmente avrà una programmazione pluriennale perché avrà risorse a disposizione su più anni e quindi davvero è un cambio di passo notevole che sono sicuro verrà immediatamente apprezzato dai cittadini perché queste opere sono immediatamente cantierabili. Ancora una notizia che riguarda invece il mercato immobiliare, perché allora il mercato si è lasciato alle spalle, cito testualmente il rapporto di Nomisma di oggi, la pesante crisi degli ultimi 7 anni, ma la risalita sarà lenta e non priva di insidie. Incombono ancora i retaggi del passato e il loro smaltimento potrebbe generare contraccolpi negativi. È il rapporto appunto annuale di Nomisma sul mercato immobiliare che segnala il miglioramento complessivo, un miglioramento che sottolineano i ricercatori si era già delineato nella seconda parte del 2014, sottolinea la stessa Nomisma che per recuperare il livello del PIL precedente alla crisi, con una crescita annua dell'1,5% che ancora non abbiamo perché quest'anno se va bene facciamo 0,9 e 1,5 se va bene lo facciamo l'anno prossimo, bisognerà aspettare il 2026, ecco perché dico che non ha senso parlare di crisi, quando usciremo dalla crisi, quando si torna nella normalità, è cambiato tutto, nel frattempo, tempo che tu abbia quei livelli lì, manco non ti ricordi più come stavi nel 2007. Comunque sentiamo Luca Dondi, consigliere delegato di Nomisma, intervistato dalla nostra Deborah Rosciani. Ci sono segnali di miglioramento che sono dati dall'aumento delle compravendite in una fase ancora però di incertezza che si innesta dopo una crisi molto lunga in cui le famiglie hanno pesantemente risentito della doppia ondata recessiva e quindi la connotazione di questa nuova fase espansiva sarà la fragilità. Le banche hanno ripreso ad erogare mutui e il tema a cui date maggior peso nel vostro rapporto quest'anno è proprio il credito, per il quale prevedete un momento ancora favorevole a lungo? Abbiamo una stima di crescita ulteriore delle erogazioni per quanto riguarda i mutui alle famiglie, con una componente di sostegno alle transazioni più forte rispetto a quest'anno, dove l'incremento molto consistente registrato nelle erogazioni deve essere in parte rilevante attribuito alla componente di surroga e sostituzione. L'anno prossimo il miglioramento dovrebbe essere appannaggio in maniera più rilevante della componente di nuove operazioni rispetto alla sostituzione di operazioni già effettuate. Allora, diamo i numeri, ma diamoli bene. Nell'ultimo anno il prezzo del petrolio, misurato con il Brent, quindi il riferimento del petrolio del Mare del Nord, è sceso da 77 a 45 dollari al barile, in media, e stiamo anche sui 45 appunto, che a casa mia fa un meno 42% nel prezzo del petrolio. Nello stesso periodo l'euro ha perso il 14% nei confronti del dollaro, perché poi il petrolio si paga in dollari, quindi per essere corretto devi vedere quanto è il calo del prezzo del petrolio, però anche quanto ha perso l'euro sul dollaro, perché ogni volta che l'euro perde sul dollaro paghiamo un po' di più il petrolio. La differenza è ancora a vantaggio, come spesso ricordiamo, cioè al netto dell'indebolimento dell'euro, e quindi incamerato anche questo, il petrolio costa tuttora il 28% in meno rispetto a un anno fa. Domanda: di quanto sarà scesa la benzina? Beh, dice, ma la benzina conta solo per un terzo, capito? Ma la benzina è scesa del 6%, il gasolio dell'8%. Presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera anche a Mauro Antonelli dell'Ufficio Studi dell'Unione Consumatori. Buonasera Antonelli. Buonasera a voi. Tabarelli, adesso poi parliamo con lei anche di Kiev e Mosca per quello che riguarda il gas e eventualmente anche del tema Turchia-Russia. Però leggere che per via dell'escalation della crisi in Medio Oriente, faccio notare che l'ISIS e i terroristi islamici non sono apparsi due settimane fa, dire che nelle ultime due settimane fa c'è stata un'escalation in Medio Oriente è quantomeno impreciso. L'escalation purtroppo ce la siamo beccata noi a Parigi, a Bruxelles e adesso anche, anche in Turchia. Ecco, questo ha spinto il petrolio ai massimi. Ok, il petrolio in effetti era un po' salito. Ma massimi, insomma. Beh, massimi di che? Ecco, ma scusi, però abbiamo detto, perché dovete spiegarmi una cosa una volta per tutte. Il petrolio, il prezzo della benzina alla pompa, riflette il prezzo del petrolio di alcuni mesi fa, nel bene e nel male, cioè sia quando sale sia quando scende, o ha una capacità di trasmissione prezzo del petrolio sul prezzo della benzina così veloce? Perché se mi dite che due settimane fa c'è stata l'escalation del terrorismo e quindi oggi Eni più due centesimi sulla benzina, più uno sul diesel, Esso mezzo centesimo, Kuwait un centesimo, Total Ergo un centesimo, allora non capisco più, cioè è un prezzo a scoppio ritardato perché viene stabilito mesi prima o è immediato? Immediato, oggi vedevo un punto vendita che è una grande marca che fa delle variazioni all'interno dello stesso giorno, cioè di giorno fa due centesimi in più, di sera quando la domanda cala lo abbassa. Questo è un prezzo che segue gli andamenti internazionali del prezzo della commodity, che è un derivato del petrolio, non è la stessa cosa. Questo ieri negli ultimi giorni ha avuto un po' di salita, più c'è il cambio che aiuta, pertanto le compagnie hanno scaricato subito sul consumatore queste leggere tensioni che in parte derivano da quello che accade in Medio Oriente. Tuttavia sono degli aumenti di un prezzo che rimane ai minimi degli ultimi 7-8 anni. Sì, okay. E pertanto insomma la situazione è abbastanza tranquilla per il momento. Il prezzo del greggio in realtà si mantiene su valori bassi. Però, mi scusi, forse mi ricordo male io, ma la benzina a 1,545 non è ai minimi degli ultimi anni, o sbaglio? Ma il service è vicino ai minimi, perché il prezzo ufficiale anche qua è d'azione di 40 centesimi tra minimo e massimo, ma quello di riferimento del Ministero dello Sviluppo Economico, che è un servito, fa intorno a 1,45, 1,50, e siamo ai valori minimi degli ultimi 2-3 anni, è stato anche 1,40, 1,39, però quando alcuni mesi fa, ancora quando il prezzo del petrolio era ancora più basso. La benzina, c'è stato un po' di ripresa dei consumi e questo si è scaricato subito sui prezzi internazionali, le compagnie applicano questi prezzi internazionali. Sì, a me è un po' inquieta che mi racconti lei, proprio lei che è presidente di Nomisma Energia, che ha visto addirittura un distributore che fa una differenza tra mattina, cioè tra orario lavorativo e sera, di due centesimi, perché allora siamo alla giungla. C'è un ascoltatore che usa la definizione: siamo al classico St. Ambrose oil peak, traduco, no, non è male però questa, al picco del petrolio per Sant'Ambrogio, detto in milanese e in inglese, perché sappiamo che ci aspetta qualche milionata di persone in macchina che si sposterà per il ponte. Vorrei sentire i consumatori, quindi Mauro Antonelli, però chiedo ancora qualche minuto al meteo e alla pubblicità. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Di 17:40 minuti. Allora, Mauro Antonelli, dell'ufficio studio di Unione Consumatori, siamo noi troppo cattivi e maliziosi? Perché Tavarelli dice il prezzo si muove in maniera automatica. A noi risulta che quando c'è da calare invece ci si venga sempre raccontato che il prezzo del petrolio riflette contratti presi 2 mesi prima, 1 mese prima. Prego. C'è la famosa doppia velocità, per cui ogni minima scusa è buona per alzare i prezzi, e quando invece i prezzi vanno abbassati, chissà perché è così lento o addirittura non si abbassano per niente. Io ho guardato un attimino mentre guardavo il record che aveva suscitato scalpore nel 2008, 16 luglio del 2008, era 1,55 euro, quindi praticamente quasi lo stesso prezzo di adesso, e all'epoca il petrolio era ovviamente alle stelle. Quindi la realtà è che con il prezzo del petrolio così basso e così minimo, grazie al quale ricordiamo stiamo anche diciamo crescendo di più grazie all'andamento dell'euro, al petrolio, alla BCE e così via, evidentemente questo non si è riflettuto sul prezzo della benzina e del gasolio, perché si stanno abbassando pochissimo. Quindi abbiamo avuto una prima stangata, ricordiamo, dal 1 ottobre, quando è aumentata la luce il gas, e adesso rischiamo di avere di nuovo una stangata sul prezzo della benzina, perché in realtà le vere tensioni che potrebbero accadere, che ancora non sono assolutamente accadute, tra la Russia, l'Ucraina, la Turchia, eccetera, eccetera, quelle potrebbero creare eventualmente delle tensioni effettive, quindi a quel punto se aumentano ancora, e già adesso quando queste tensioni ovviamente non c'erano, figurarsi cosa può accadere in futuro. Tabarelli, io una cosa non capisco, però il prezzo di adesso è vicino al prezzo di Lehman Brothers, quando il petrolio viaggiava a $110-120 al barile, no? Capito che l'euro era un po' più forte, ma noi abbiamo fatto il calcolo, l'euro ha perso il 14% e il petrolio invece è sceso del 42%, per cui c'è ancora un meno 28%, ma obiettivamente non se ne esce mai da questa vicenda. Io non lo dico, lei non produce petrolio, lei fa il presidente di Nomisma Energia e quindi analizza il settore, lo dico agli ascoltatori. Però dico, obiettivamente è difficile giustificare un prezzo da pompa a 1,55 euro, 1,54 euro. Guardi, noi da circa 6 anni che ci siamo inventati questo prezzo ottimale, chi lo vuole andare a vedere sul nostro sito, tutte le settimane calcoliamo quello che dovrebbe essere il prezzo. Facciamo una cosa molto semplice: prendiamo il prezzo di un carico da 30.000 tonnellate sul mercato internazionale, che adesso è intorno ai $600 per tonnellate, tramutiamo in litri, in euro per litro, ci aggiungiamo la cosa più importante che è stata aumentata negli ultimi anni, che sono le tasse. E questo, al netto delle tasse, dobbiamo guardare quello come variazione. Queste variazioni sono state in linea con il prezzo del greggio, anzi si sono abbassate negli ultimi giorni di più, perché nei mesi scorsi era preso meno. E pertanto è tutto relativamente normale. Abbiamo avuto un abbassamento, abbiamo avuto il forte aumento delle tasse sulla benzina di circa 15 centesimi nel 2011, pertanto ogni paragone con il 2008 va fatto al netto della tassazione. Noi siamo il paese, e di questo si devono lamentare molto i consumatori, non tanto per ridurle ma per evitare futuri aumenti, abbiamo la tassazione più alta in assoluto sull'energia in generale, ma in particolare sulla benzina e sul gasolio autotrazione, ed è per questo che fra l'altro altre cose di cui si dovrebbero preoccupare i consumatori sono tutto l'illecito che è nato intorno a un paese che si sta impoverendo e che fa di nuovo il contrabbando, ad esempio alle frontiere di questi prodotti. Al netto di questo, il prezzo della benzina intorno, per i più attenti, che ce ne sono tantissimi purtroppo, perché il reddito pro capite sta scalando in questo paese, c'è molta gente che deve stare molto attenta a dove fare benzina e fare gasolio. I più attenti fanno benzina 1,40, 1,39 e gasolio è 1,28. Quel punto vendita che le dicevo, la sera fa 1,28 e di giorno, che la domanda aumenta, 1,30, 1,31. Sì, allora, poi chiarisco, dopo ci sono degli estremi, sa, nel centro di Roma, quando uno va con la moto oppure signore ricche. Io non contesto il fatto che il distributore più nel centro città e magari con meno concorrenza possa praticare dei prezzi più alti rispetto ad altri distributori. Cioè, esiste una legge di mercato, anche lì ci mancherebbe. Io parlavo in generale dei prezzi praticati. Chiarisco agli ascoltatori, è verissimo, i 2/3 del prezzo della benzina, lo raccontiamo sempre, sono accise e tasse, e solo 1/3 è in realtà il 68% per la precisione della componente fiscale, il 32% il prezzo industriale. Nello specifico le accise valgono il 48%, l'IVA il 20%, il costo internazionale il 23%, il ricavo dei petrolieri è il 9%, quello dei distributori circa il 3%, e poi la famosa lista delle accise: paghiamo ancora la guerra d'Abissinia, il disastro del Vajont, il terremoto del Belice, la missione in Libano del 1983, quella in Bosnia del 96, il terremoto dell'Aquila del 2009, l'arrivo degli immigrati è l'ultima, 0,04 euro dopo la crisi libica del 2011, l'alluvione di Liguria e Toscana nel 2011, il decreto Salva Italia, il terremoto dell'Emilia del 2012. Cioè non c'è disastro che abbia colpito questo paese che non si scarichi, lo dico senza cinismo, sulla pompa di benzina e nel serbatoio degli automobilisti. Uno può pensare quello che vuole. Senta, chiedo un'ultima cosa a Antonelli, poi passiamo ai temi internazionali. Ma voi perché non proponete un monitoraggio che vada al di là, diciamo, da quello che ci racconta la staffetta petrolifera? No, noi abbiamo chiesto di avere tutti i prezzi di tutti i distributori sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e non invece i prezzi industriali, che ovviamente non servono a niente, e di modo tale che uno, mettendo il nome del distributore, possa sapere i prezzi, perché la trasparenza del prezzo è il presupposto della concorrenza. E invece non riusciamo nemmeno a ottenere che sia obbligatorio mettere il famoso prezzo sui noti benza cartelloni in autostrada, perché c'è sempre non pervenuto NP, come tutti quelli che viaggiano in autostrada sanno. Stiamo ancora aspettando, esattamente da quando ce lo promise l'allora ministro Marzano, il famoso meccanismo di sterilizzazione. È vero. La ricordate? Sì, no, c'era anche un sottosegretario, anzi vice ministro dell'economia, che venne, vado a memoria, Vannucci, adesso cerco. Marzano nel 2002 disse: stiamo studiando. Allora, cos'era questo meccanismo? Era un meccanismo che, per cui se fosse aumentato troppo il prezzo della del petrolio, in maniera inversamente proporzionale si riduceva il meccanismo dell'IVA, se non ricordo male, cioè di sterilizzazione. Sì, evitavano di guadagnare ultimamente in base alla doppia tassazione, accise più IVA, che ovviamente sia sulle accise Valducci, che sul prezzo Valducci industriale. L'ha ripetuto l'attuale sottosegretario dell'economia Paola De Micheli quest'anno, in agosto, ha ripetuto: stiamo studiando. Lo disse il governo Monti, l'allora sottosegretario Claudio De Vincenti: stiamo studiando il meccanismo. Questi da dunque 2002 a 2015, quanto sono? 13 anni che stanno studiando. E non hanno ancora avuto il bonus di Renzi. Dovrebbero tornare all'elementare, diciamo così. Però il vero problema è che le accise non aumentano dal 2011, quando ci fu la famosa stangata di ben 5 aumenti delle accise in un anno, un record, oserei dire, mondiale, e il petrolio comunque, diciamo così, si è abbassato di molto, e ovviamente il prezzo della benzina no. Quindi, al di là del fatto che abbiamo una tassazione eccessiva e che i governi considerano gli automobilisti dei polli da spennare, la realtà è che comunque non si spiega questo andamento. Purtroppo l'antitrust ha aperto delle istruttorie, diciamo così, su eventuali cartelli, ma non è riuscita ad avere le prove, e quindi da questo punto di vista non si è potuto andare avanti. Ci sono state anche procure che hanno indagato, perché è strano come nello stesso giorno aumentino tutti, no? Quindi questo strano comportamento. No, ma io invito anche a non prenderci troppo in giro, cioè l'escalation della crisi medio orientale delle ultime due settimane non si può sentire, come dicono i ragazzi, cioè è una balla colossale, anche perché, ripeto, riguarda l'Europa, ahimè, e le tensioni, o meglio la guerra, gli scontri in Iraq e in Siria c'erano anche purtroppo due mesi fa, c'erano anche 4 mesi fa, c'erano anche 5 mesi fa, quindi è chiaramente una scusa. Mi stanno scrivendo una marea di ascoltatori su WhatsApp, soprattutto, cito testualmente: gennaio 2010 gasolio a 1,085 euro, gennaio 2011 gasolio a 1,239 euro, adesso il gasolio viaggia appunto su 1,04 euro, 1,03 euro, ma il petrolio era molto più alto. Io lo dico col massimo rispetto, tanto non se ne esce, è un déjà vu. Ma nel ringraziare Mauro Antonelli, chiedo invece a Davide Tabaralli di restare ancora con noi dopo il traffico. Volevo capire le vostre prospettive: Mosca-Kiev da un lato e Mosca-Ankara dall'altro. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, Tabarelli, prevedete delle tensioni? L'Europa e anche il ministro Guidi, per quello che riguarda il blocco delle forniture di gas russo all'Ucraina, sono molto tranquilli, abbiamo le riserve piene, o al 90%. Anche lei è così tranquillo e si attende qualche tensione invece più sul fronte Ankara-Mosca? Perché lì c'è il progetto di gasdotto Turkish Stream, se non ricordo male, no? Sì, 910 chilometri che dovrebbero tagliare il Mar Nero e correre per 180 chilometri sulla parte europea della Turchia e da lì andare sul mercato turco e il mercato europeo. Sì, ovviamente quando ci sono questi progetti si va sul lungo termine, sul più breve termine c'è il problema delle forniture di gas, già nel 2009, nel 2006 abbiamo avuto dei cali delle forniture dalla Russia perché dall'Ucraina si prendeva quello che teoricamente doveva andare verso l'Europa. C'è una guerra in corso, ce ne dimentichiamo ogni tanto, in Europa fra Ucraina e Russia, l'Ucraina dietro la NATO. Ieri la Turchia, che è membro della NATO, ha abbattuto un aereo russo e l'unico strumento che ha la Russia per fare un po' di pressione, non è l'unico ma uno dei più importanti, è quello sull'Ucraina. E non ha pagato, si sapeva che non avrebbe pagato perché non c'ha soldi, ha deciso di interrompere, che era già nell'aria, queste forniture. E fa freddo, vedremo già nelle prossime ore se questa minaccia è qualcosa di concreto, perché ogni giorno ad esempio all'Italia da Tarvisio arrivano qualcosa come 90 milioni di metri cubi di gas su una domanda che in questi giorni intorno ai 250-300, ecco lì vedremo se c'è calo e se il problema è più serio di quanto speriamo che non sia. E c'è da dire che i giorni scorsi, paradossalmente, ma è collegato a questo, in Crimea c'è un blackout che era stato causato da questa volta da quelli dell'Ucraina e pertanto è una forma di vendetta da parte dei russi e anche perché per questa mancata fornitura di elettricità in Crimea che fino a pochi mesi fa era ancora dell'Ucraina. In sostanza l'energia si conferma come strumento di azione politica in questi paesi, ma direi che tutto è collegato con la Turchia, che è comunque anche questo un membro NATO, Turchia che però ha un disperato bisogno del gas. Del gas russo, perché il 60% la Turchia rappresenta per Mosca il secondo mercato del gas dopo la Germania, sì, il 60% del gas turco arriva dalla Russia, quindi poi certo, c'è tutto un import-export di metalli, altri materiali chimici, cibo. Sì, cioè pensate che anche il turismo, perché la Turchia è stata la principale destinazione dei turisti di russi per anni. Nel 2014 3.300.000 turisti l'hanno visitata, ecco perché le tensioni poi possono avere una ricaduta fortemente economica. Però lei mi sembra, vi devo chiudere adesso la prima ora del programma, Tabarelli, mi sembra anche lei abbastanza tranquillo per adesso sul gas. Momento sì, perché ne abbiamo già di queste crisi negli anni passati. Sta di fatto che rimane irrisolta la questione della guerra in Ucraina, dove delle nostre forniture dalla Russia, la Russia conta per un quarto dei nostri consumi di gas in Europa. Grazie anche al presidente di Nomisma Energia. Adesso c'è il GR24, poi i mercati finanziari e l'idea dei 500 euro da spendere per i diciottenni in cultura. 349-238-6666 per gli sms e per WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con no, te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24. C'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino. Due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog. Da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13, su Radio 24. Gira il mondo, gira, e sempre più vorticosamente. Difficile capire tutto quello che accade, ma state tranquilli. A fine giornata vi racconto cos'è successo in Italia e all'estero, con i servizi della redazione e con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commentiamo adesso la borsa e poi arriviamo al a quello che si è capito del bonus da 500 euro per i neo diciottenni, neo maggiorenni, da spendersi in consumi culturali. Più 1,87% Milano, più 1,5% Parigi, più 2,15% Francoforte, più 0,96% Londra. Il Dow Jones in America più 0,15%, euro a quota 1,06%. In recupero quasi tutti i settori: CNH Industrial più 5,40, Anima Holding più 4,50, Finmeccanica più 4,20 e Azimut che guadagna il 4%. Poi la Pop Milano il 3,30 di rialzo come Campari, Jux Net-a-Porter più 2,70 come Enel Green Power, il 2,3 lo guadagnano Prismian, ma anche Intesa San Paolo, Mediolanum e Terna. Unicredit porta a casa il 2,2% di rialzo, Exor il 2% come Enel ed Eni. Sostanzialmente l'unico titolo un po' debole è Tenaris, meno 0,25%. Come sempre con Radio Core, il Sole 24 Ore, il commento. Oggi però, come facciamo ciclicamente, invitiamo anche operatore del mercato dei capitali, quindi Filippo Diodovic, strategist per IG Market Italia. Buonasera. Buonasera. Allora, insomma, ieri si sono spaventate le borse, oggi hanno preso atto del tentativo di distensione, se così possiamo dire, tra Russia e Turchia? Sì e no, perché per quanto riguarda, c'è stato più dal lato turco che c'è stato un allentamento delle tensioni, certo. Dal lato russo le dichiarazioni sia del ministro degli esteri che del ministro della difesa sono state molto hanno accentuato più le tensioni con le gravi conseguenze per quanto riguarda ulteriori indagini per quanto riguarda la vicenda. Quindi anche lo schieramento dei missili al confine tra Siria e Turchia fa notare come da parte della Russia non si vuole trascurare. L'intervento di Obama ha un po' disteso, anche Erdogan ha cercato di distendere le tensioni, però rimaniamo ancora dubbiosi. Finmeccanica comunque continua a salire sui ragionamenti di un'escalation delle tensioni militari terroristiche? Sì, queste sono state sicuramente le prospettive per quanto riguarda Finmeccanica, sono di una crescita, visto che l'aumento delle tensioni sempre nell'area, anche se si dovessero distendere i rapporti fra Turchia e Russia rimangono sempre elevate, visto gli scontri contro lo Stato islamico. C'è stato l'intervento di Renzi che ha dichiarato che ci sarà un fondo di 1 miliardo di euro per la sicurezza e 500 milioni di euro proprio per quanto riguarda nuove commissioni, quindi molto probabilmente Fine Meccanica dovrebbe ricevere gran parte di questi sovvenzionamenti. Dunque il lusso ha rimbalzato dopo il calo importante di ieri, e l'abbiamo raccontato. I bancari in realtà guardavano più alle prossime mosse della Banca Centrale Europea. Sì, la Banca Centrale Europea oggi ha fatto importanti dichiarazioni, perché ha fatto sapere che comunque aumenterà gli acquisti per quanto riguarda il piano di quantitative easing nelle prossime settimane, in vista di non fare acquisti soprattutto a fine dell'anno, quando c'è pochissima liquidità sul mercato. Sì, che sospenderà l'acquisto durante Natale per evitare distorsioni soprattutto. Certo, sì, perfetto. E poi ci sono sono uscite molte indiscrezioni riguardo al prossimo meeting della prossima settimana. Ci sono sono aumentate le possibilità che la BCE possa intervenire, quindi ampliare questi stimoli monetari che ha in vigore, con con uno scenario sia di un ulteriore taglio del tasso sui depositi, quindi che al momento sono già negativi, quindi rendere più costoso alle banche lasciare i propri fondi alla BCE, e quindi stimolare le banche a aumentare i crediti alle imprese, alle famiglie. Un'altra possibilità per quanto riguarda la BCE è quella di ampliare sempre il piano di acquisto di titoli, inserendo anche possibilmente anche i corporate bond, quindi anche titoli con le imprese, probabilmente con un grado molto elevato. Quindi questo è tutto per dare stimoli all'economia e quindi aumentare la liquidità del sistema. Un ultimo titolo che è il migliore oggi, Case New Holland CNH Industrial, più 5,41%. È un rialzo significativo. Non ho visto prospettive del comparto in miglioramento, ma mi dica lei. Sì, il titolo ha evidenziato questo forte incremento per la trimestrale del competitor americano che ha evidenziato dei conti superiori alle attese e ha mostrato un outlook per l'anno prossimo in calo, però anche qua ha superato le aspettative del consensus. Questo ha portato un miglioramento per quanto riguarda il clima di fiducia sul comparto. Ricordiamo, il comparto dei macchinari del settore agricolo è un comparto che sta soffrendo da parecchio tempo e ha da prospettive un po' anche per il rallentamento delle economie dei paesi emergenti, anche da parte della Cina. È un comparto che ha sofferto molto. Ecco, questi dati trimestrali del più grande produttore di macchinari agricoli ha ridato un po' di fiducia, e quindi per questo ci sono stati così tanti acquisti su CNH. Migliori e peggiori in assoluto oggi, per quello che riguarda Piazza Affari, chiaramente come sempre diamo le variazioni, le prime due, tre variazioni più significative: Metorios Capital più 16,5%, Agronomia più 15,5%, Cover 50 più 11%, Astaldi più 7,30%, fronte opposto invece Digital Bros meno 6%, ecco Santec meno 4,70% e poi Mondadori meno 3,70%. Grazie anche a Filippo Diodovic, appunto, di IG Market Italia. Noi cambiamo tema e cerchiamo di capire che cosa ha annunciato ieri il Presidente del Consiglio, ma soprattutto come potrebbe realizzarsi questo annuncio. Estendiamo ai 18enni una misura che è già prevista per i professori. Da quest'anno, come sapete, abbiamo istituito un bonus, una carta bonus per i professori italiani di 500 euro annui per consumi di natura culturale. I 550.000 italiani che compiono 18 anni tutti gli anni riceveranno questa card. Potranno cioè investire in teatro, museo, concerto, un piccolo bonus che diventa simbolicamente il benvenuto nella comunità dei maggiorenni, ma soprattutto che diventa simbolicamente il modo con il quale lo Stato ti carica di una responsabilità: essere protagonista e coerede del più grande patrimonio culturale del mondo. Questa spesa sarà soltanto per iniziative di natura culturale. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento Davide Colombo del Sole 24 Ore da Roma. Buonasera Davide. Buonasera. E Domenico De Masi, sociologo, preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a voi. Mi dica una cosa, io non ho una posizione, ma lei ha capito come si potranno spendere questi 500 euro e che giudizio dà? Intanto poi andiamo sul traffico e analizziamo il resto, ma De Masi, le sembra una buona iniziativa? Alcuni dicono è un'iniziativa elettorale, si va a elezioni, ti becchi il voto di 18 anni, vabbè, tutto è possibile, ma al di là del fatto se abbia anche un fine o no elettorale, lei ha capito il portato finale? Beh, io sono un professore, dunque un intellettuale, il fatto che si facciano spese per la cultura, mirate sulla cultura, è sempre un fatto positivo. Poi è ovvio che si possono fare in vari modi queste spese. Non è il primo paese che discute di questo, per esempio in Brasile c'è stata una lunga polemica su come conferire la borsa famiglia. La borsa famiglia è un sussidio che si dà alle famiglie povere, però in due modi. Cardoso sottoponeva questa elargizione al fatto che i genitori dimostrassero che i figli andavano a scuola regolarmente, quindi che non ci fosse evasione scolastica, mentre Lula in modo più populista dava questo sussidio poi indifferentemente a prescindere dall'utilizzazione culturale vera e propria. Ecco, sono due modi per distribuire soldi per la cultura, però uno è molto più appropriato e l'altro è più populista. Ecco, quindi... il punto a cui vorrei che le rispondesse dopo il traffico è proprio questo. Alcuni mi scrivono, ma lo sa il governo che la maggior parte di chi ha quell'età scarica libri e film e tutto da internet? Ho capito, non è un buon motivo per non dare un incentivo per andare a vedere una pièce teatrale, andare a un museo e quant'altro. Adesso non è che tutto si risolva su internet o sulla nuvola. No, mi chiedo se in realtà non si potesse legare questo bonus a una forma di rendimento scolastico, oppure era troppo ambizioso. Cioè dire, attenzione, se tu hai una certa media, dimostri di essere, hai anche una famiglia con una certa soglia di reddito, o addirittura legarlo, come fanno nei paesi anglosassoni, a una specie di cofinanziamento con le banche per prestiti a tasso molto agevolato, in cui lo Stato dà un contributo a patto che tu ottenga certi voti, per cui all'estero si dice, e allora a quel punto la banca ti può dare un prestito con l'ausilio dell'aiuto statale a tasso ancora più agevolato. La risposta dopo il traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, professor De Masi, fermo restando che nessuno può criticare se questa carta permetterà di spendere in cultura, ma visto che parliamo di diciottenni, non era meglio utilizzare altre forme di incentivo al merito, allo studio? Alcuni mi scrivono abbassare le tasse universitarie e altre cose, ma insomma, o la carta secondo lei è quella più così facile di utilizzo ed efficace? No, abbassare le tasse universitarie assolutamente no, poi dirò perché. Comunque c'è una differenza enorme tra il sussidio e la borsa di studio. La borsa di studio presuppone due fattori, il basso reddito e l'alto merito. Invece il sussidio non presuppone nulla, cioè è a pioggia. Lo riceve ugualmente per il solo fatto di aver raggiunto 18 anni. Sì, che è l'altra cosa che a me non convince, nel senso che il figlio di una persona che ha un certo reddito alto, perché deve ricevere 500 euro? Lo dico con massimo rispetto. Cioè, magari ha una famiglia, sappiamo come funziona la sociologia, non devo certo insegnare a lei. La fruizione culturale dipende molto anche dalla famiglia in cui cresci, quindi probabilmente ti hanno già abituato ai musei. E chi deve ricevere un vantaggio forte è chi non ha avuto questa fortuna nella vita di crescere una famiglia che l'abbia portato nei musei, nei cinema, nei teatri, l'abbia spinto anche a farlo. Ma poi c'è da dire che ovviamente per fare le borse di studio, cioè per accertare reddito e merito, ci vuole un'organizzazione più raffinata, ci vuole un'organizzazione Beh, basta che poi uno sia disponibile a farsi controllare dall'Agenzia delle Entrate quando fa una dichiarazione del genere. Io l'ho sempre detto, nel mondo anglosassone si fa così. Tu chiedi, dici, sono a basso reddito, mio figlio ha bisogno della borsa di studio, è perfetto, e l'Agenzia delle Entrate acquisisce questo dato. Non è che poi puoi girare in Ferrari, come abbiamo visto in alcuni casi. Ma non era meglio, ripeto, professor De Masi, metterlo in incentivi al merito? Cioè, non c'è dubbio. A questo punto, guardi, anche senza il reddito. Cioè, voglio dire, un ragazzo che studia e studia bene può avere un accesso agevolato alla banca, al di là forse del reddito della sua famiglia, in modo che siano incentivati tutti. No, l'ideale sarebbe un indice composto di merito e di reddito, però anche solo merito è meglio di niente, mentre il fatto di compiere 18 anni non mi sembra che sia un merito e un reddito, diciamo così, è un fatto naturale. Naturalmente la cosa più semplice, la più populista, la più... Quindi secondo lei è una manovra elettorale questa, è un elemento elettorale, misura elettorale. Elettorale. Non voglio togliere assolutamente la possibilità che ci sia stata anche una buona intenzione. Ripeto, da intellettuale qualunque spesa va per la cultura, comunque è un fatto positivo. Sbagliato invece quello che sentivo prima, che oggi la formazione si fa attraverso i tablet, attraverso, e quindi non per me è una cavolata. Un concerto dal vivo, andare a vedere un museo di persone è diverso che vedere un'immagine, certo, di un... Mi dice un'ultima cosa, professor De Masi, ma perché le alcuni dicono potevano ridurre le tasse e meno il diritto allo studio anche in caso universitario, perché lei è contrario? Le dico perché. Sì. No, lì io sono senz'altro d'accordo sul dare borse di studio come si fa negli Stati Uniti, molto forti, proprio borse di studio sostanziose e soprattutto date tempestivamente, perché in Italia non solo sono basse le borse di studio, ma arrivano un anno dopo quando arrivano. E sono per forti borse di studio ai meritevoli non abbienti, mentre sono per tasse abbastanza più alte per chi ha i soldi, perché in Italia le tasse scolastiche, parliamoci chiaro, sono quasi ridicole praticamente, con escamotage vari si riesce a pagare pochissimo, e tutto sommato, per esempio, faccio il paragone con un paese sicuramente più povero come il Brasile, dove il prodotto interno lordo pro capite è di $11,000 contro i nostri $34,000, in Brasile si paga non meno dell'equivalente di 7 mila euro per un'iscrizione alle scuole pubbliche, mentre da noi si paga un settimo praticamente. Davide Colombo, al di là di questi 500, ripeto, va tutto bene, però si può fare anche meglio, mettiamola così, ma non è per fare i benaltristi, è per dire semplicemente che 500 euro solo perché compi 18 anni, come diceva De Masi, sono d'accordo, non è né un merito né una colpa, diciamo, hai qualche dovere in più, qualche diritto in più rispetto alla potestà genitoriale, ma non è che per questo devi beccare 500 euro a 18 anni, agganciali a qualcosa, agganciali al merito. Comunque, Davide Colombo, c'era un'altra novità annunciata ieri dal Presidente del Consiglio su Benvisto Ires, no? Sì, beh, certo, diciamo che stiamo parlando di una scelta di policy che è nettamente diversa. Questa misura costa 300 milioni di euro, giusto? Quella dei 500 euro. Questa misura costa 300 milioni di euro, si salirebbe a circa 350 milioni di euro con le circa 15.000 borse di studio che sono state annunciate. Diciamo che complessivamente questi 2 miliardi, un miliardo per la sicurezza e un miliardo per la cultura, rappresentano una virata forte rispetto all'impostazione che era quello di un anticipo della riduzione dell'aliquota IRES sulle imprese. Naturalmente una virata che è stata fatta alla luce degli attacchi terroristici del 13 novembre scorso. Questa mattina il ministro Padoan in audizione alla Commissione Schengen ha confermato che la condizionalità prioritaria per l'adozione di queste misure è il riconoscimento da parte di Bruxelles della clausola di flessibilità legata all'evento eccezionale della spesa che abbiamo sostenuto per il soccorso dei migranti, e che questa condizionalità verrà riconosciuta non prima della primavera prossima, perché la Commissione europea vuole vedere a bilancio le cifre delle spese che sono state sostenute. Questa richiesta è stata fatta oltre che dall'Italia solamente da altri due paesi, il Belgio e l'Austria, ha detto Padoan, perché non tutti i paesi si trovano nelle condizioni di poter fare questa richiesta. Però anche qui, ne parleremo anche domani, giustamente tu facevi notare che la virata, il miliardo per la sicurezza, poi Renzi ha detto per ogni euro per la sicurezza un euro per la cultura, di fatto mette la pietra tombale sull'ipotesi di anticipare il taglio dell'IRES. a nostro avviso quanto mai importante, perché era uno dei pochi tagli di tasse sulla parte produttiva, IRPEF, IRES, IRAP. Comunque bisognerà aspettare a quel punto la manovra per il 2017. Grazie per la chiarezza che gli è propria a Domenico De Masi e anche a Davide Colombo del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.